Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Chiaramente sarà una puntata quasi monografica, nel senso che abbiamo diviso i vari aspetti del DL ieri presentato dal Presidente del Consiglio e poi dagli altri ministri competenti in il DL rilancio in 3-4 grandi voci, perché è talmente corposo oltre che come cifra, 55 miliardi. E quindi la parte che riguarda le imprese, gli aiuti alle imprese in base anche alle dimensioni, e qui andremo a parlare anche, oltre che della rata IRAP, anche degli aiuti a fondo perduto, che sono una novità e valgono 6 miliardi complessivamente. Dentro l'impresa c'è anche la voce agricoltura, chiaramente, e anche la parte che riguarda il turismo, che da quello che ho visto è il settore che, a mio avviso, anche in parte giustamente, ma poi lo dirò, si sta più lamentando. E questo è il fronte, diciamo, misure per le imprese. Poi c'è il fronte misure per i lavoratori, e quindi la cassa integrazione in deroga, bonus autonomi sostanzialmente, bonus golf e badanti, che ci porta alla terza aspetto di questa manovra, che in realtà sono il valore di due manovre, e riguarda le famiglie, le misure per le famiglie, perché il bonus golf e il bonus badanti serve anche alle famiglie, e per quello che riguarda appunto il reddito di emergenza, il tema dell'ISEE, congedi parentali e appunto bonus babysitter, e in quello facciamo rientrare anche l'eco bonus, perché quello riguarda l'eco bonus. Per quello che riguarda invece le famiglie, certo che c'è anche il bonus vacanze sotto i 40.000 euro di ISEE, che vale 2 miliardi e 400 milioni. Qualcuno mi sta già scrivendo: sono ancora a chiacchiere. Beh, adesso attenzione, vediamo di capirci. Secondo me, più che un DL rilancio, questo è un DL ristoro, e non è un gioco di parole, nel senso che, dovendo essere il DL aprile poi slittato a maggio, sappiamo, per le tensioni dentro la maggioranza, soprattutto su cosa fare della sanatoria per i lavoratori agricoli, dicevo, era un decreto pensato per dare ristoro in primo luogo alle imprese che non hanno fatturato, ai lavoratori che non hanno lavorato e quindi sono stati messi in cassa integrazione, o agli autonomi per quello che riguarda la seconda parte dei 600 euro, nel senso che la prima parte era stata evasa a marzo e qui poi si arriva alla parte che riguarda anche aprile, con anche tutto un rinvio o sospensione di scadenze fiscali. Lo chiamo DL ristoro più che DL rilancio, perché il DL rilancio dovrà essere un'altra cosa, e qui chiarisco subito, poi ne parliamo. In questo momento tu, come governo, sei intervenuto con una manovra poderosa, perché 55 miliardi sono due manovre finanziarie di due anni, per quello che riguarda le attività di imprese e lavoratori che erano sostanzialmente chiusi, perché sappiamo che fino, diciamo, a metà aprile più del 50%, dati Istat, intorno al 44% lavorava, 56% delle attività erano chiuse, in alcuni settori erano chiuse al 100%, penso al commercio, e in altri no. Però, dicevo, questa è la parte in cui tu vai a ristorare la mancata attività, la mancata fatturazione, per dilemmare il mancato lavoro, i mancati introiti. Poi ci dovrà essere una parte, ma che non affronteremo certo adesso, sul DL rilancio vero e proprio. Perché lo dico? Perché adesso tu sostanzialmente, non dico che tu dia i soldi a pioggia, ma la situazione è talmente chiusa e bloccata in tutto il paese che non fai grandi distinzioni. Più avanti bisognerà iniziare a fare delle distinzioni, perché alcune attività di impresa, non solo nella manifattura, si spera possano tornare a lavorare a pieno regime, lo stiano già facendo, e quindi, insomma, lì avrai sicuramente un calo del fatturato, ma non sarai, diciamo, chiuso o non avrai un crollo. Penso alla meccanica industriale, alla manifattura, a tutta la subfornitura e quant'altro. Ma penso anche, se parliamo del mondo del commercio, banalmente, alla differenza tra, visto che molto si è discusso della categoria, tra un parrucchiere e un ristorante. parrucchiere appena riapriranno, vedremo domani se verrà consentito a tutte le regioni di anticipare al 18, tornerai a utilizzarlo come prima, non penso che andrai da parrucchiere di meno, andrai con la frequenza che avevi prima e quindi è immaginabile per esempio che nei prossimi mesi tu possa tornare a fatturare come facevi prima. Tutto il settore turismo, alberghi e ristorazione, essendo legato a comportamenti culturali, cioè io i capelli me li devo tagliare, poniamo una volta al mese o una volta ogni mese e mezzo. Al ristorante prima ci andavo tre volte, adesso posso andarci zero, posso andarci una. In vacanza posso anche decidere che, visti i costi, i limiti, possa non essere conveniente per me andare in vacanza. Cioè alcuni settori, e ne ho citati, insomma, macro settori, turismo e mondo della ristorazione, pensate a tutto ciò che ruota attorno al catering, sia dei matrimoni, sia degli eventi, delle convention, dei congressi, quant'altro, lì non vedrai nulla per i prossimi mesi. È diverso un settore come la manifattura che ha ripreso a produrre, o un settore come il commercio che vedrà degli acquisti, non dico come prima, però sicuramente meglio di altri settori, mettiamola in questo modo. E quindi per quei settori ha ragione, in questo caso il turismo, le compagnie o le agenzie di viaggio, dovrà intervenire ulteriormente, mandando in maniera molto molto mirata, cioè non si potrà più pensare a un ristoro complessivo, ma a interventi molto mirati, anche perché, e ho concluso, i soldi, a mio avviso, con sto giro sono finiti, nel senso che tu hai già fatto tra marzo e aprile e adesso l'equivalente di 3 anni di manovre finanziarie, che valeva 24 quella di aprile su marzo e vale 55 quella di maggio su aprile e sul resto. Non è pensabile che tu possa continuare a fare una manovra finanziaria ogni mese dal valore di un anno, diciamo, quello che era la manovra di un anno ogni mese. E dovrai andare a chiedere i soldi, lo dico MES, non MES, Recovery Fund, anche queste manovre sono fatte largamente a deficit, però non puoi continuare a fare manovre, insomma, senza tornare, senza rivolgerti anche agli strumenti che ti dà l'Europa. Qualcuno mi dice, del potere d'acquisto vogliamo parlarne? È chiaro che non sto dicendo che i settori torneranno tutti a fatturare come prima, ma si capisce anche senza essere degli esperti che alcuni settori potranno immaginare di arrivare vicino o di recuperare parte del crollo produttivo, su altri invece c'è ancora nebbia densa, e ripeto, non bisogna essere un indovino per capire che tutto l'hotel o l'oreca, come si chiama, hotel, ristoranti e catering saranno ancora in mezzo al guado, non potranno immaginare come altri, di tornare a un livello simile, anche se un po' più basso rispetto a prima, e lì bisognerà intervenire con un vero decreto rilancio, nel senso che vada a agevolare l'attività di impresa in quei settori. Qualcuno mi dice probabilmente i parrucchieri vanno un boom di clienti nei primi giorni, va bene, è ovvio che ci sarà in alcuni settori un rimbalzo laddove tu hai compresso i consumi, ma vale anche per l'abbigliamento. Se tu in questi mesi non ti sei comprato le scarpe o qualcosa di cui avevi bisogno, è chiaro che appena riprendi i negozi andrai, ti metterai in fila e le comprerai. Non è sui consumi, diciamo, che io chiamo culturali, perché sono frutto anche di un atteggiamento, e lì non mi puoi obbligare ad andare al ristorante come ci andavo prima, o andare al bar come ci andavo prima, o andare in vacanza come ci andavo prima. Non è una necessità in senso stretto. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso iniziamo l'analisi approfondita di tutti i punti di questo decreto, che io chiamo appunto ristoro e non rilancio, perché pone un ristoro e dovrebbe far respirare chi sta soffocando come attività produttive per la mancata soprattutto per le mancate aperture. Dicevo, i mercati finanziari oggi invece non sono ben intonati, non che lo fossero tanto nei giorni scorsi. Si ragiona soprattutto sull'allarme lanciato dalla Banca Centrale Europea, che parla di un crollo record, non tanto nel primo trimestre, il PIL dell'area euro ha fatto meno 3,8%, ma anche e soprattutto nel secondo trimestre, dove la Banca Centrale Europea dice vi sarà una contrazione, quindi un crollo senza precedenti, e tra l'altro dice attenzione perché sarà anche più pesante il secondo trimestre rispetto al primo, e non ci vuole molto a capirlo, nel senso che il primo è composto da gennaio, febbraio e poi il mese di marzo, che è stato un mese perso. Il secondo si becca aprile, maggio e giugno, e quindi con ottime, se non possibilità, se non la certezza, di essere anche peggiore del primo trimestre. E la BCE aggiunge: c'è una forte incertezza sui tempi e sulla portata della ripresa. Il PIL dell'area euro potrà crollare tra il 5 e il 12% su base annua. E poi vi sarà un crollo, c'è un deterioramento, scrive la Banca Centrale Europea, degli indicatori dei consumi senza precedenti. Lo shock, ha aggiunto poi Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE, lo shock che ha colpito l'economia globale è di eccezionale gravità. L'obiettivo delle politiche economiche deve essere innanzitutto quello di preservare il potenziale produttivo. Sarebbe un errore gravissimo lasciar fallire imprese sane, ci mancherebbe. Ancora, è inevitabile più debito, aggiunge Panetta, ma per spese produttive. La Gran Bretagna nel frattempo ha annunciato che gli aiuti di Stato della Gran Bretagna costeranno circa 140 miliardi di euro alla Gran Bretagna, anche perché vi è un impatto di 103 miliardi dei sussidi governativi concessi per finanziare fino a ottobre l'80% del salario, con un tetto di 2.500 sterline mensili, a milioni di persone costrette al congedo dal lockdown. Poi sul turismo vedo che qualcuno mi fa notare, ma ne parleremo, che la Francia invece ha lanciato un piano ben più imponente. Ma guardate, io non ho problemi a dire che secondo me è la voce turismo quella che ancora va completata, perché quello che vale per altre imprese, per far respirare altre imprese, non vale per il turismo, che ha necessità, diciamo, di un aiuto più forte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ecco, giustamente adesso un ascoltatore mi scrive: guardi che il primo preventivo, che ancora non confermato, lavoro nel settore eventi, è del maggio 2021. Voi capite che gli eventi, che vogliono dire tante cose, non hanno in questo momento un orizzonte, che si tratti di un matrimonio, che si tratti di un congresso, che si tratti di un qualunque evento, non c'è ancora orizzonte. Andiamo sulle altre notizie in breve. Dicevo della borsa, meno 1,90%, un po' corretto, un po' recuperato adesso, meno 1,80 a Parigi, meno 1,90 a Francoforte, meno 2,60 a Londra, meno 0,20 il Dow Jones, bene di Assorin più 2,90, male Case New Holland, CNH meno 5,20, Exor meno 4,40, Leonardo meno 4,30, Amplifon meno 3,80, Prismia meno 3,30, Snam meno 3,20, come Campari. Il 3% lo perde Enel, ma anche Fiat Chrysler. Il 2,90 lo perde Era, il 2,80 Mediolanum come Terna. Il 2,5 è il calo di Unicredit, di Telecom Italia, di Recordati e di Salvatore Fragamo, di ST Microelectronics, ma anche di Mediobanca e A2A. Notizie in breve. Allora, direi le notizie in breve oggi sono molto, a parte la Banca Centrale Europea, le chiudiamo qui. Vorrei invece, la Banca Centrale Europea ha detto giustamente che gli acquisti di titoli di Stato continueranno a essere effettuati in maniera flessibile nel corso del tempo e finché la Banca Centrale Europea non avrà ritenuto conclusa la fase critica legata al coronavirus. Nel frattempo dagli Stati Uniti arriva la notizia che i sussidi di disoccupazione sono saliti a 3 milioni di unità. Gli analisti si aspettavano un incremento di 2 milioni e mezzo. Faccio notare che solo due mesi fa erano 300.000 a settimana, cioè sono 10 volte in più, anche se il dato è migliore rispetto ai 6 milioni raggiunti tra fine marzo e i primi di aprile. Allora, andiamo all'analisi dei vari settori. Devo dire che se andiamo ai comuni, alle varie voci, c'è una voce che non abbiamo preso in considerazione. Ripeto, parliamo di imprese sotto i vari aspetti, è anche sul fronte imprese come diciamo società, ma anche come lavoratori, e poi andiamo sul fronte famiglie. Quindi imprese, lavoratori e famiglie. C'è una parte importante comunque del DL rilancio che riguarda i trasferimenti agli enti locali. Sono più o meno 6 miliardi e 100 i trasferimenti a comuni e regioni, di cui 3 miliardi e mezzo di un fondo presso il Ministero dell'Interno al fine di assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per espletare le funzioni fondamentali. Beh, sapete tutti che quando tu sospendi per esempio la tassa sul suolo urbano, la TOSAP, o sospendi molte tasse locali, IMU e quant'altro, poi i comuni vanno in bolletta, nel senso che non riescono a pagare altre funzioni. Ecco perché c'è un trasferimento a comuni, vale anche per le regioni. Tra l'altro poi c'è una dotazione di 12 miliardi di euro destinata a concedere anticipazioni a regioni, province, autonome ed enti locali che si trovino in stato di carenza di liquidità per pagare i propri debiti di carattere commerciali, devono essere certi, liquidi ed esigibili. Ricordo a questo proposito che poi sulla voce che non prenderemo in considerazione, oltre ai trasferimenti a comuni e regioni, c'è il tema sanità, perché ci sono 2 miliardi e 600 milioni per assunzione di infermieri e di specializzati nelle terapie di rianimazione, 1 miliardo e mezzo va alla protezione civile, e poi da questo punto di vista è anche prevista, sono previsti 270 milioni per portare a zero l'IVA sulle mascherine e sui guanti, questo sul fronte sanitario. Però adesso noi ci occupiamo dei tre altri pilastri, diciamo che su quattro pilastri, uno è quello appunto enti locali e sanità, gli altri tre sono quelli che immagino riguardano direttamente i nostri ascoltatori. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Scrive sulla Gran Bretagna, diceva adesso la Gran Bretagna deve far da sola, se fosse rimasta nell'Unione Europea ne avrebbe giovato. Bah, sì, non è mai stata nell'euro, però scusatemi, oggi mi vorrei occupare dell'Italia. Allora partiamo dal un pilastro, diciamo una gamba del tavolo di questo DL rilancio che io ho ribattezzato DL ristoro, riguarda appunto trasferimenti alle regioni, sanità e protezione civile. Poi l'altra gamba del tavolo, e qui entriamo nel vivo, riguarda le imprese. Allora, intanto vi do una fotografia di insieme. Su 55 miliardi, sono circa il doppio dell'ultima manovra di bilancio che valeva per tutto il 2019, sono al 25% vanno alla cassa integrazione, sono circa 14 miliardi tra cassa integrazione e i 600 euro agli autonomi. Il 20% dell'intero impianto va alle imprese, sono circa 11 miliardi, appunto, adesso vedremo come. Un 10% va alla sanità, circa. Un altro 10% sanità e protezione civile, dobbiamo mettere dentro tutte le due cose. Un 10% va al turismo e commercio. E poi le quote restanti, che non sono poche, vanno a agevolazioni fiscali e erogazioni a favore di categorie diverse come golf e badanti. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, partiamo dalle imprese. Ci sono tre diversi tipi di aiuti per le imprese. Da un lato parlo delle imprese sotto i 250 milioni di ricavi, praticamente sono meno di 1000 imprese che in Italia hanno più di 250 milioni di ricavi, non dovranno pagare la rata IRAP, l'anticipo IRAP di giugno, una cancellazione che vale 4 miliardi, a cui si aggiungono i 6 miliardi per i ristori a fondo perduto sotto i 5 milioni di fatturati, e a cui si aggiungono, se ho ben capito, anche per le imprese più piccole sconti sulle bollette, ci sono 600 milioni, e credito d'imposta sugli affitti al 60% esteso a tutte le aziende. Poi sentiremo Conte e Gualtieri, però ho capito bene, cioè IRAP più il fondo perduto per quelle più, gli investimenti a fondo perduto per quelle più piccole, e invece per quelle di medie dimensioni tra 5 e 50 milioni vi sarà un mix di incentivi fiscali agli aumenti di capitale, la possibilità di un intervento di Invitalia con un nuovo fondo patrimonio PMI. Gianni? Sì, esatto. Allora partiamo dal primo, dall'IRAP si è creato un piccolo giallo, perché la norma, almeno nelle bozze circolate fin qui, sospende, cioè cancella l'acconto, però essendo l'IRAP come le altre imposte articolata su acconto e saldo, non si precisa che quanto non viene richiesto in acconto non sia poi richiesto al saldo, che è un dettaglio non indifferente. In verità va detto subito che questo inciampo è per una formulazione non troppo felice della norma. Il Ministero dell'Economia in mattinata ha assicurato che sarà specificato anche nella relazione tecnica il fatto che l'acconto del 16 di giugno è, quindi 4 miliardi che dicevi tu, sono cancellati, non sono sospesi e quindi non verranno richiesti a saldo. Ecco, questo è fondamentale, cioè, sono 4 miliardi che vanno di mancate entrate nelle casse dello Stato, perché l'IRAP serve a pagare la spesa sanitaria, lo ricordo a tutti, anche, ma che lo Stato metterà quindi a deficit, ma non verranno chiesti agli imprenditori. Esatto, è fondamentale, ed è anche fondamentale quando si scrivono le norme fiscali scriverle bene, perché nel fisco, vabbè, più che in altre materie, il diavolo è nei dettagli, diciamo così. Quindi, comunque, prima, diciamo, parte 4 miliardi di cancellazione dell'IRAP, che vale per tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi, e quindi ne restano fuori circa 1000 imprese, ho capito bene? Sì, restano fuori un migliaio di imprese, che sono quelle appunto che superano i 250 milioni di euro di ricavi o che li hanno superati nel 2019, e più restano fuori banche e assicurazioni, perché a loro l'IRAP verrà chiesta. Ok, e questo è il fronte IRAP. Poi andiamo all'altro, voglio lasciare per ultimo invece il fondo, diciamo gli investimenti a fondo perduto. L'altro elemento riguarda lo sconto su bollette e credito d'imposta sugli affitti? Sì, allora lo sconto sulle bollette cancella gli oneri di sistema, che sono la parte fissa di queste bollette, delle utenze energetiche per le piccole imprese, collegata a questa scelta al lockdown. Il presupposto è: sei stato chiuso per legge, quindi questi oneri di sistema te li cancello. Un presupposto simile interviene anche per gli sconti sulla TARI, sulla tariffa rifiuti, per commercianti, negozianti, bar, ristoranti e imprese. ARERA, l'autorità che fa il metodo tariffario, che fa le tariffe, diciamo, dei rifiuti, ha chiesto ai comuni di scontare dalle bollette la quota variabile della TARI per i giorni di chiusura, sul presupposto che se tu sei chiuso non fai rifiuti, non ne produci. Esattamente. E il credito d'imposta sugli affitti del 60% è esteso rispetto a quello di marzo, perché riguarda tutti gli affitti commerciali, non solo quelli della categoria catastale C1, cioè i negozi, e quindi riguarda tutti gli affitti commerciali, per cercare di dare un sollievo, perché ovviamente queste piccole imprese, il problema è sempre quello. Cioè, praticamente qui come funziona? Tu hai un affitto che chiaramente hai dovuto pagare, ma non hai potuto incassare, fatturare, e quindi vai. Si trasforma in il 60% dell'affitto dovuto, di quello che devi per i mesi di marzo, aprile e maggio, si trasforma in uno sconto fiscale, in un credito di imposta. Ok, quindi se io, non so, d'affitto avessi pagato 2000 euro al mese per marzo, quindi aprile e maggio sono 6000 euro, il 60% di questo lo posso portare, no, in, se sono 3600 euro, sono 3600 euro, lo posso portare come credito di imposta. Esattamente. Ok, e questo mi sembra già qualcosa. È chiaro che uno dirà: ma volevo il 100%, però, e vale per tutti, tu ricordi? Non... Vale per tutti gli affitti commerciali, non gli affitti abitativi. Beh, certo. Però per tutti gli affitti commerciali, cioè non è più collegato alla categoria catastale dell'immobile, certo. Perché il primo, quello di marzo, era legato solo alla categoria C1, che sono i negozi. Allora, sentiamo Gualtieri sul taglio dell'IRAP a cui tu facevi riferimento, che vale 4 miliardi e, ripeto, vuol dire non è una, non posticipi, semplicemente tagli l'IRAP che avresti dovuto pagare a giugno, nell'acconto di giugno. Beh, la principale misura è il fatto che noi aboniamo il saldo acconto dell'IRAP. È una misura importante di sostegno all'impresa, è questa scelta il risultato di un dialogo positivo con l'associazione delle imprese. Noi pensiamo che un governo che fa un decreto per i lavoratori e per le imprese deve ascoltare le posizioni dei lavoratori e delle imprese, quindi c'era una richiesta e noi abbiamo ritenuto giusto realizzare questo intervento che elimina il saldo acconto dell'IRAP. Veniamo all'ultima misura, perché poi chiudo con Gianni Trovati, perché passeremo invece, ah no, non chiudo perché abbiamo ancora altri elementi, c'è l'agricoltura e c'è il turismo. Allora Gianni, resta con noi, 349-238-6666 per SMS, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo il meteo e la pubblicità parliamo invece degli aiuti a fondo perduto che valgono altri 6 miliardi, di quello che poi è stato confermato sull'agricoltura e poi sul turismo, laddove invece ci sono più dubbi sull'efficacia delle manovre. Noto che alcuni mi scrivono, ma sulla scuola, anch'io ho visto poco sulla scuola. Gianni, dimmi una battuta, ma la scuola arriveranno in un altro decreto le risorse? No, hanno previsto nell'ultima bozza una assunzione di 16.000, se non mi ricordo male, beh, sì, insegnanti, e un po' di norme sugli esami di Stato. Allora, meteo. Focus economia. Minuti, continuiamo a cercare di descrivere, per come riusciamo a farlo, per gruppi, gli interventi previsti dalla manovra dal DL Rilancio, che ho chiamato DL Ristoro. Dopo la rata IRAP, cancellato appunto l'anticipo di giugno per tutti, mi chiedono alcuni ascoltatori, e poi dopo il credito d'imposta sugli affitti, su questo mi chiedono, Gianni Trovati, vale solo per il mondo del commercio o per gli affitti in genere, tranne che privati? Per gli affitti non vale per gli affitti abitativi. Ecco, per tutti gli altri affitti sì, cioè. Sì. Anche, sì, esatto, cioè, intendevo prima per affitti commerciali, quelli non abitativi. Quindi anche una fabbrica, un capannone, un sì, ufficio che serve. Sì. Ok, quindi il 60%. Il finale della norma, ma sì. Allora, poi c'è il terzo aspetto degli aiuti alle imprese, così chiudiamo con le imprese, che riguarda gli aiuti a fondo perduto, molto richiesti. Io li dico che, secondo me, forse andrebbero nel futuro indirizzati solo ad alcuni settori per il ragionamento che ho fatto prima, ma questo farà parte di un altro DL Rilancio. Allora, da 2.000 fino a 40.000 euro, vale 6 miliardi, per le imprese che fatturano da 0 a 5 milioni di euro e che abbiano avuto un calo di fatturato del 33%. Ora, io penso che sia andata la totalità. L'indennizzo andrà da 2.000 euro fino a 40.000 euro. Allora, se ho ben capito, intanto i soggetti a cui si rivolge. Sì, i soggetti a cui si rivolge sono tutte le partite IVA, quindi gli autonomi, gli artigiani e così via, fino a 5 milioni di euro, che hanno subito una perdita ad aprile del 2020 di almeno il 30%, cioè una riduzione di fatturato ad aprile di quest'anno di almeno il 33% rispetto all'aprile dell'anno scorso. Non dovrebbero essere, cioè, è chiaro che qualcuno magari per fortuna sua non l'ha avuto, magari alcune imprese nel settore dell'alimentare, visto che le poche cose aperte erano nei negozi alimentari, non l'hanno avuto il 33% in meno, magari alcuni panifici, ecco. Però la stragrande maggioranza, Gianni, non dovrebbe avere problemi purtroppo a dimostrare che ha fatturato, che ha avuto ricavi di almeno il 33% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene prevista un'eccezione per le società costituite a partire dal 1 gennaio 2019 e per le aziende che erano comunque nelle zone rosse chiuse prima del lockdown, e quindi se in questi casi non si va a vedere, quindi Codogno per esempio o chi ha aperto un'attività a febbraio, non si va a vedere l'andamento del fatturato. Allora, qui ci sono tre scaglioni, perché tu devi fare, le tre soglie prevedono una percentuale per 20, del 20% per le aziende che hanno avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro, del 15% per le imprese con un fatturato da 400.000 euro a 1 milione, del 10% per chi ha avuto fatturati da 1 milione a 5 milioni, quindi si va su un mondo delle piccole ancora, no Gianni? Perché qua... Sì, esattamente, queste percentuali vanno calcolate sulla perdita di aprile 2020 rispetto ad aprile 2020. Quindi questo dovrebbe servire, io penso, in parte anche al mondo del turismo, invece però visto che la STOI, per esempio l'associazione delle agenzie di viaggio, dice tagliate fuori più del 90% delle imprese perché fatturano più di 5 milioni, però immagino che ristorazione, commercio, anche alberghi, quando non grandi catene, possano rientrare spesso almeno nel fatturato da fino a 1 milione o fino a 5 milioni. Cosa vuol dire questa differenza? Facciamo l'esempio. Allora, dimmi. Questa differenza vuol dire sostanzialmente che si prova, nei limiti delle risorse date, a dare un indennizzo che non sia simbolico alla perdita di fatturato determinata dal lockdown. Per il turismo, per i ristoratori in particolare, o comunque per gli esercizi del turismo, c'è un problema in più perché è legato alla stagionalità della loro attività. Allora, in molti casi, in determinate aree del paese, il rapporto fra aprile 2020 e aprile 2019 non è significativo. Giusto. Perché io il grosso del mio fatturato lo faccio nei mesi estivi. Mesi estivi che quest'anno saranno verosimilmente, come dire, molto avari di soddisfazioni per gli operatori economici. Quindi il timore è che se io ho un ristorante in un posto di mare dove magari non molto al sud, quindi dove ad aprire la stagione assolutamente non è nemmeno alle porte, il confronto con aprile 2019 ti dà poca roba. No, non mi dà nulla, io certo. Sono fuori perché non ho perso il 33%, perché ad aprile, come dire, un momento basso tutti gli anni per me, e quindi non ho nessuno. Ma ti faccio anche l'esempio opposto: se tu avessi avuto un ristorante o un albergo in località montane, sappiamo tutti che ad aprile la stagione lì è finita di solito, adesso insomma il grosso è tra dicembre e febbraio. Esatto, no? Aprile è un mese abbastanza sfortunato come parametro di riferimento. L'avranno per scelto tutti apposta. I tipi di attività turistiche. No, scherzo. E allora, no, è stato il mese del lockdown. No, il mese del lockdown. No. Per tutti gli altri, allora, questo vale per il mondo del turismo, è chiaro che se il tuo ristorante o albergo o attività commerciale era in una città, invece aprile ha un senso, perché tu vai a vedere semplicemente il raffronto. Facciamo un esempio, l'impresa, diciamo, Trovati fatturava 350.000 euro nel 2019, quindi è sotto i 400.000 e può avere un 20% di ristoro a fondo perduto. Nel mese di aprile 2019, fatturando 350.000 euro, immaginiamo che tu fatturassi 30.000 euro, 32.000 euro. Quest'anno sarai sceso, se ti va bene, a 5.000, lo uso come esempio. La differenza tra 32 meno 5 fa 27, e lo Stato ti dà il 20% di quei 27. 27, qui, esatto. Quindi ti dà 5.400 euro, il che vuol dire che tu alla fine, invece che fatturare solo 5.000 euro, ne avrai fatturati 10.400. Mi rendo conto che siano sempre un terzo rispetto a quelli che fatturavi. Sì, è anche un po' meglio perché l'aiuto a fondo perduto non è reddito imponibile, quindi non ci paghi le tasse. Non ci paghi le tasse, è vero, perché poi quello era un fatturato su cui tu andavi a pagare le tasse. Invece è vero, hai ragione, bisognerebbe poi levare aggiungere anche il fatto. Un filo medio, via. No, è meglio perché poi su quel lì avresti pagato dal 30-40%, 48% di, bisogna vedere come era fatta l'impresa, e che non devi pagare in questo caso. Quindi è un po' più di arrivi quasi alla metà al netto delle tasse. Questa percentuale invece scende sopra i 400.000 euro, cioè il ristoro è pari alla differenza tra quanto hai fatturato meno quanto fatturavi un anno fa meno quello che hai fatturato quest'anno, e mentre fino a 400.000 euro ti do il 20% della differenza, sopra i 400.000 euro fino a 1 milione ti do il 15% della differenza, sopra il milione fino a 5 milioni ti do il 10% della differenza. Va fatto notare appunto che è un 10% a fondo perduto, quindi è netto, è un po' più alto anche in questo caso, perché tu su quel fatturato ci pagavi le Tasse, allora, dici la domanda come andrà presentata, perché qui andiamo sui tempi anche, prego. Allora, no, il governo ha pensato a un meccanismo sostanzialmente automatico, sarà l'Agenzia delle Entrate a erogare sulla base dei dati della fatturazione elettronica in primo luogo questo indennizzo, quindi sarà un canale telematico che nelle intenzioni del governo è assolutamente rapido. Dico nelle intenzioni del governo perché altrettanto assolutamente rapido doveva essere il canale telematico del bonus da 600 euro avviato con il decreto marzo, poi insomma l'INPS ha avuto i suoi problemi in verità. Speriamo che l'Agenzia delle Entrate non replichi. Sì, guarda, che mi fa notare giustamente un ascoltatore che questo ristoro è anche meglio di quanto non sembri, perché come dicevi tu devi elevarci, cioè dovresti aggiungerci le tasse che non vai a pagare. Voglio dire, se io, tornando all'esempio della SRL Trovati, l'anno scorso a aprile ho fatturato 32.000 euro e quest'anno ne ho fatturati 5.000, lo Stato mi dà, abbiamo detto facendo tutto il conto, 5.400 euro a fondo perduto, però sono netti, e quindi se avessi dovuto ottenere quei soldi come ricavi fatturato avrei dovuto pagarci le tasse, dico quasi per 10.000 euro, vado insomma per 9.000 euro. In secondo luogo mi fa notare giustamente l'ascoltatore, attenzione, non ci sono i costi, perché io per ottenere quel fatturato di 32.000 euro avrò avuto anche dei costi l'anno scorso che quest'anno non ho avuto perché sono chiuso. Adesso non posso immaginare il rapporto dei costi, ma qualche altro migliaio di euro e anche di più li avresti avuti per costi del personale, costi del fornitore, le bollette e quant'altro. Siccome tu hai chiuso, questi costi non li hai avuti, quindi in realtà il ristoro, a mio avviso, fino ai 400.000 euro arriva a un quasi alla metà. E poi invece sì, fammi dire però una cosa in contraltare: è tutto vero, è tutto giusto, va detto anche che parte di questi costi però sarebbero stati deducibili certo, dalle tasse, quindi questo riduce un po' il vantaggio fiscale. Insomma, è un aiuto significativo che non risolve il problema e che ha una serie di incognite o comunque di aspetti problematici nel meccanismo attuativo, perché dico l'ultima cosa, tu citavi giustamente il fatto che le aziende che sono nate nel 2019 non hanno l'obbligo del il parametro della perdita di fatturato, quindi per accedere non devono dimostrare di aver perso il 33%. Va benissimo, va tutto bene, se la macelleria, non me ne vogliono i macellai, ma visto che insomma lavorano, se la macelleria ben avviata è nata nel 2019 può ottenere un contributo, potrebbe ambire a un contributo che copre percentualmente una perdita tutto sommato ridotta se ce l'ha avuta. Sono d'accordo. Allora, dunque, questo crea quanta una ignoranza tra fatturato e margine? No, guardate, ascolta, il testo lo abbiamo appena chiarito, perché però il testo parla di fatturato, non di ricavi, giusto? Il testo parla di fatturato e non di margine, certo, perché il fatturato è il volume. Oh. È il volume, diciamo. E quindi d'affari, non capisco però, perché siamo così ignoranti. Si parla del fatturato a cui lei avrebbe dovuto levare i costi per ottenere questo fatturato. Certo, come dice Trovati, avresti avuto anche delle parti deducibili, che qui non hai, però avresti avuto anche dei costi. Non è che questi 32.000 euro di fatturato, se sei un esercizio commerciale, se sei uno studio, quello che è, li facevi senza pagare i dipendenti, senza pagare i fornitori. Attenzione bene. E poi adesso arriviamo alla parte invece lavoro. Qualcun altro mi chiede, quindi se io fatturo il 32,9% in meno o anche solo il 25% in meno non rientro aprile su aprile? Esatto, purtroppo come tutti i parametri lascia fuori tutti quelli che certo, si fermano un micron prima del parametro. Questo è sicuramente un problema, ma quando si mette un parametro rigido è un problema, perché se tu hai fatturato il 28% in meno non è che stai meglio di chi ha fatturato il 33, non c'è dubbio, ma non c'è però, dubbio. Lì purtroppo è il parametro. Invece mi interessa meno chi dice ma io la fatturazione elettronica non l'avevo. Beh, bisogna capire perché, avrai altri modi per fatturare. È certo invece che resteranno fregati, ma questo non mi interessa, tutti quelli che fatturavano parte della loro attività in nero. Perché è chiaro che se i 32.000 euro reali erano fatti 10.000 in chiaro e 20.000 in nero, per lo Stato, per il ristoro, tu vai a guardare solo quello che è la parte in chiaro. E quindi tu dici 10.000 adesso, li facevo 10.000, adesso ne ho fatti 2.000, rientri nella categoria perché hai perso più del 33%. Ma in realtà tu hai perso non il 20%, tu hai perso molto di più, hai perso il 90%, non hai perso l'80%, hai perso il 90% in reale, ma tu verrai ristorato solo per la parte che hai dichiarato, no? Nel meccanismo. E quindi spero che sia anche un buon modo per capire che il nero in questi casi almeno non premi il nero, capito bene Gianni? Esattamente, a Dio piacendo, almeno questo aspetto ce lo siamo risparmiati. Perché se tu non hai fatturato, naturalmente anche il volume in valore assoluto della tua perdita si riduce, e quindi si riduce la percentuale, il valore assoluto della prodotto dalla percentuale di indennizzo prevista dalla norma. Allora, non posso rispondere a tutte le categorie che mi stanno scrivendo. Ho necessità oggi di parlare dell'impianto generale. Poi avremo i prossimi giorni per capire i vari aspetti. Agricoltura, andiamo veloci qui perché la parte più discussa, 1 miliardo e 150 milioni nel settore agroalimentare per sostenere la filiera agricola. Diamo il diritto di lavorare legalmente, così il ministro Teresa Bellanova questa mattina a Radio 24 da Simone Spezia e Maria Latella con 24 Mattino. Noi andiamo incontro alle grandi campagne di raccolta dove c'è bisogno di avere più manodopera. Abbiamo fatto, io stessa mi sono fatta promotrice di una proposta verso il Ministero del Lavoro del dire rendiamo compatibile il sussidio del reddito di cittadinanza, dell'indennità di disoccupazione con il lavoro stagionale per un certo numero di giornate, per 30 giornate e prorogabile per altre 30. Su questo diciamo è un lavoro che si sta facendo. Agli italiani non è mai stato impedito di andare a lavorare in agricoltura. Adesso continuiamo a fare questi appelli, ma non possiamo obbligare le persone ad andare a fare un lavoro piuttosto che un altro. E quindi dobbiamo agire su tutti gli strumenti che possiamo avere a disposizione e dare alle persone che invece vogliono farlo questo lavoro il diritto di farlo in modo legale. Vabbè, e lì non voglio andare oltre, che dobbiamo correre adesso. Le reazioni, il presidente Confindustria Veneto Carraro dice mancano ancora diversi capitoli, c'è grande frammentazione a partire dal 4.0, cioè ammortamenti e superammortamenti per chi innova in azienda, che la stessa pandemia ha dimostrato essere un asset strategico e che andrà affrontato con decisione nell'ambito della legge di bilancio, nonché la necessità di accelerare gli investimenti pubblici. Gianni, però facciamo capire una cosa, questo è il DL rilancio o io ho chiamato DL ristoro, poi ci sarà la manovra vera e propria, no? Beh sì, oddio, già questa è una manovra. Sono due manovre queste. Nel senso che è molto grande, però sì, è previsto un altro decreto legge a stretto giro che si dovrebbe chiamare rinascita per gli amanti, diciamo, dei nomi delle leggi. Io non sono tra questi, anche perché poi la legge dopo come la chiamerai? Se fate il rilancio, la rinascita, poi resurrezione, te lo dico io. Il decreto resurrezione. Però sì, ci sarà un'altra misura di semplificazione e di spinta agli investimenti pubblici, agli appalti, almeno questo prevede il programma di governo. Allora, tutti quelli che mi fanno domande giustamente molto dettagliate, io rimando al Sole 24 Ore, non per fare il paraguru, ma perché il Sole ha più spazio. Quante pagine avrete domani? Non oso neanche immaginarlo. Una marea. Ecco, il famoso una marea, che è un numero molto preciso di pagine, per spiegare ogni dettaglio. Comprate il Sole, ma non perché ci sono. Anche un inserto di 6 pagine, più ci sono 8 pagine di primo piano. Gianni, io devo tenerti ancora perché mi manca il turismo e poi devo passare invece con il collega Pogliotti alla parte dei lavoratori e quindi cassa integrazione, partite IVA e quant'altro e per arrivare alle famiglie. Dovremo correre 349-238-6666 per sms e WhatsApp GR. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso affrontiamo anche gli altri aspetti del DL rilancio o DL ristoro, come l'ho chiamato io. Perché? Perché a mio avviso va a ristorare, ripeto di nuovo, va a ristorare le mancati fatturati, attività, non completamente, ci mancherebbe, di aprile e in parte anche maggio. In questo senso, Gianni, mi fanno notare gli ascoltatori, è vero che, per esempio, come tu ricordavi, i soldi a fondo perduto, abbiamo spiegato bene il meccanismo, una perdita di almeno il 33% del fatturato rispetto ad aprile del 2019, a meno che tu non sia nato nel 2020, ma tu dicevi il turismo, siccome è stagionale, spesso non le città d'arte magari, ma se tu hai un albergo, un ristorante, un negozio in un luogo di mare o in un luogo di montagna, aprile era un mese morto. Alcuni obiettano, beh, appunto, tanto tu non fatturavi ad aprile, quindi se è un ristoro ci sta come logica. A mio avviso è vero, il problema è che poi dovrai iniziare a pensare ai mancati fatturati del turismo tra maggio, giugno, o meglio giugno, luglio, agosto, settembre. Perché Gianni, è vero che io magari non fatturavo comunque, fatturavo pochissimo ad aprile, però beccherò delle belle batoste nei mesi successivi. Sono d'accordo, assolutamente vero, questo è legato al principio, diciamo, dell'indennizzo da lockdown. Esatto, quindi, ecco perché un DL ristoro, non un DL rilancio, secondo me. Esatto, il problema è che la crisi del turismo è talmente profonda e talmente, esatto, come dire, totale, da avere bisogno di interventi molto molto rilevanti per cercare, parliamoci chiaro, di salvare il salvabile prima di poter ripartire, e il DL cosiddetto rilancio da questo punto di vista non è sufficiente. Il problema è che esaurisce sostanzialmente i fondi già molto rilevanti. Ecco, aspetta che ho bisogno di riprendere la linea con Trovati meglio. Sì, il problema è che appunto i fondi, ma questo è un altro capitolo, ne parleremo, si sono esauriti, ed ecco perché i prossimi fondi arriveranno, immagino io, da prestiti europei, MES e quant'altro. Sul mondo del commercio però due posizioni: una è quella di Sangalli, che dice bene l'IVA, l'aumento dell'IVA e l'IRAP di giugno, la cancellazione della conto IRAP di giugno, ma serve di più. E poi invece la delusione, così andiamo al settore turismo, che era quello che mancava, del consigliere delegato di Astoi Confindustria Viaggi, sono le agenzie di viaggio, e si chiama Pier Ezzaia. Allora, prima Sangalli e poi Ezzaia. Bene aver evitato l'aumento automatico dell'IVA, così come l'IRAP di giugno. Bene come abbiamo chiesto i primi indennizzi a fondo perduto. Ma serve subito più liquidità vera per le imprese, che ancora non c'è, più risorse a fondo perduto, più contributi per la filiera del turismo, della ristorazione e per i negozi che devono riaprire, più tempo per pagare le scadenze fiscali. La crisi è di proporzioni mai viste, occorre un'azione più forte e strategica per un vero rilancio del paese. Corposo non tanto, in realtà, per le esigenze di un settore che sta collassando. Col decreto Italia siamo stati già abbastanza delusi perché non c'era nulla, col decreto rilancio c'erano molte aspettative, una sensazione di aver fatto qualcosa a livello di facciata. I 4 miliardi di euro come potrebbero essere distribuiti? Ma guardi, i due temi principali che noi avevamo posto al vertice delle richieste erano di stanziare un fondo a sostegno dei ricavi mancati. Si consideri che per la parte che rappresentiamo noi come Astoi e anche con le agenzie di viaggio collegate abbiamo un giro d'affari di 20 miliardi. Si stima che ne verrà perso il 75% quest'anno. Quindi stiamo dicendo che è un danno intorno ai 15-14 miliardi. È stato stanziato un fondo da 25 milioni di euro, credo che il commento avvenga da solo. Quali sarebbero invece, secondo voi, i provvedimenti, al di là delle risorse e insieme alle risorse necessarie per rilanciare il turismo? Il fondo perduto con una capienza un pochino più importante per aiutare questo crollo del fatturato, una cassa integrazione che deve essere, gli ammortizzatori sociali che devono estendere le 18 settimane, perché con le 18 settimane si arriva a fine luglio, ma qui avremo una crisi nel turismo che ormai durerà fino a fine anno, e poi soprattutto un quadro normativo più chiaro, perché anche ripartire senza avere norme chiare su come si staranno gli alberghi o come si potrà volare impedisce qualsiasi tipo di domanda. Un appello anche per il rilancio del turismo, un'operazione rilancio? Si deve partire da avere veramente a cuore questo settore che rappresenta il 13% del PIL. E... secondo lei trovate le misure anche di sicurezza giuste, i turisti potrebbero tornare? Sì, però non si sa quante imprese troveranno, perché molti albergatori stanno pensando addirittura di non aprire con queste restrizioni. Molti tour operator e molte agenzie di viaggio non ce la faranno. Stiamo già vedendo alcune realtà piccole che hanno deciso di non riaprire l'attività il 18 di maggio. Allora io dico subito che sicuramente il tema turismo, come già accennava Gianni Trovati, non si esaurisce con questo DL. Alcuni mi fanno notare, ma guardi che io fatturavo ad aprile perché c'era la Pasqua. Ho detto solo che per tutte le attività stagionali, probabilmente quelle che ad aprile fatturavano pochissimo, magari non hai avuto un calo del 33%. Il problema è che ce l'avrai anche superiore, temo, nei mesi clou del turismo, a partire dall'estate. Però è chiaro che non potrà bastare questa misura, e quindi 4 miliardi, se ho ben visto, messi a disposizione, che vanno soprattutto, Gianni, per concludere la tua parte, nel bonus vacanze, no? Per le famiglie con un reddito non superiore ai 40.000 euro, ma come ISEE o reddito? Non ho capito. Come ISEE. L'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 40.000 euro, e la composizione del nucleo familiare determina l'entità del bonus, del cosiddetto bonus vacanze, fra i 150 euro previsti per i single e il tetto massimo di 500 euro. Anche qui c'è un valore simbolico abbastanza evidente. Nella misura più complicato sarà invece verificarne gli effetti pratici. Sì, perché appunto, allora faccio notare una cosa, a dimostrazione che sul turismo questo è un elemento più per le famiglie che per le, che per le imprese. Perché l'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere prestazioni sociali agevolate, ed è legato al possesso di determinati requisiti, situazione economica della famiglia, insomma uno solo fa fare l'ISEE, e serve anche per il bonus babysitter e quant'altro. Però è chiaro che non basterà questo per il turismo, torno a dire. Faccio notare che la Francia ha annunciato un piano da 18 miliardi di euro, perché, lo ha detto il premier francese Edouard Philippe, il turismo è probabilmente, deve far fronte probabilmente alla peggiore prova della storia moderna, e quindi è una priorità nazionale salvarlo. Ora, è chiaro che questi 4 miliardi vanno in bonus. Ho visto che c'è anche uno stop alla prima rata dell'IMU per le imprese alberghiere e stabilimenti balneari, giusto? Esatto, a patto che il proprietario, diciamo per esempio dell'albergo, e il gestore dell'albergo siano la stessa persona. Anche qui è importante, per carità, ma vale 160 milioni di euro sul piano nazionale. Quindi poca roba sul... Allora, e poi il contributo per le famiglie con un reddito ISEE fino a 40.000 euro è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare. 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 euro per le famiglie di 2 persone, 150 per le famiglie di 1 persona. Potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre, e l'80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, e il restante 20% detrazione dell'imposta sul reddito. Mi sembra un po' macchinoso, Gianni, questo parecchio macchinoso, anche perché poi la struttura deve di fatto anticipare la liquidità dello sconto e per poi utilizzarla come credito d'imposta, ma parliamo evidentemente di una struttura all'interno di un settore in gravissima crisi. Ed ecco perché dico per la terza volta, sul turismo non ci siamo ancora, ma non è una critica diretta, è che proprio mancano gli strumenti di salvataggio. Quello è uno dei settori in cui dovrai, non dico andare a una nazionalizzazione, ma figurati, però dovrei andare a buttare dentro altro denaro fresco, perché dovrei certo non allungare le scadenze fiscali, evitare il pagamento di alcune cose, però il rischio lì è talmente alto che temo dovrai fare anche fondi di ristoro, a fondo perduto. Grazie anche a Gianni Trovati per questa lunga spiegazione Poi protestano Airbnb, chiedono di non essere esclusi dalla piattaforma del bonus vacanze, protestano appunto Assoturismo, Booking.com, anche appunto le agenzie di viaggio, le abbiamo sentite, perché, ma ripeto, mi sembra un po' macchinoso il bonus turismo. Non andiamo sul traffico perché non c'è pubblicità, oggi si può saltare il traffico, bisogna di dare purtroppo gli aggiornamenti della protezione civile. Allora, i positivi sono il 2,5% in meno, meno 2026, i guariti sono più 2,5% in più, quindi mi sembrano dati abbastanza in linea con gli ultimi giorni, sono 2.747 guariti in più rispetto a ieri, il totale è quindi tra positivi, deceduti, guariti e nuovi contagi è di 990, i contagi in più fanno 992, più 4,4%. Questo è un dato più alto rispetto agli ultimi giorni ed è dovuto, lo dico in maniera molto chiara, alla Lombardia, perché da sola la Lombardia fa 552 casi in più su 992. Uno mi può dire ha fatto maggiori tamponi, sappiamo che c'è anche il ruolo dei tamponi. Andiamo su quello che invece non è basato sui tamponi, mi riferisco ai ricoveri, alle terapie intensive e ai decessi. Allora, buono il dato sulle terapie intensive, meno 4% in meno, 38 terapie intensive in meno. Buono il dato sui ricoveri, quasi il 6% in meno, sono 758 ricoveri in meno. Non buono il dato sui decessi, lo dico perché dopo tre giorni, vado a memoria, di decessi almeno sotto i 200, ieri eravamo arrivati a 195, purtroppo oggi siamo tornati sopra i 200 a 262 e anche qui devo dire che la parte del leone purtroppo la fa la Lombardia, 111, non siamo alla metà ma siamo al 40% di tutti i decessi. Infatti, come la Lombardia ha pubblicato dei dati non belli rispetto a ieri, già sapevo che il dato complessivo sarebbe stato non bello. Quindi bene la parte dei ricoveri e delle terapie intensive, dei guariti, i contagi leggermente in crescita, ma ripeto, qui contano i tamponi, non bene la parte dei decessi. Non riusciamo a fare tutto il decreto in una puntata, proprio perché sono tanti elementi. Adesso andiamo sul tema lavoro, e cioè cosa arriva ai lavoratori. Fino adesso ci siamo occupati delle imprese, di qualunque settore, fino alle soglie previste. Adesso andiamo ai lavoratori. La parte sulle famiglie, e quindi bonus bebè, il funzionamento dell'ISEE, le disabilità, ecobonus, congedi parentali, dovremo per forza farla domani. Allora, è chiaro che i tempi saranno importanti nell'erogazione di questi crediti. Guardate, in alcuni casi, per fortuna, sei in automatico, cioè se ti sospendono l'IRAP che dovevi versare a giugno, quella è sospesa in automatico. I ristori a fondo perduto, abbiamo detto come vanno chiesti, e lì va presentata in maniera telematica l'Agenzia delle Entrate, inserendo l'autocertificazione di regolarità antimafia. Poi l'Agenzia delle Entrate fa le verifiche e provvederà a versare il contributo a fondo perduto con un accredito sul conto corrente bancario postale intestato all'impresa che è il soggetto beneficiario. La modalità per effettuare la domanda saranno definiti con provvedimenti dell'Agenzia e aspettiamo che l'Agenzia delle Entrate, speriamo velocemente, scriva tutte le modalità. L'altro tema grosso riguardava la lentezza, non tanto nell'erogare i 600 euro da quello che abbiamo visto, ma soprattutto nella cassa integrazione in deroga. Perché? Perché la cassa integrazione in deroga, che prevede l'accordo tra governo e regioni, perché? Allora, la ordinaria è sostanzialmente quella prevista ed è quella più facile. La straordinaria utilizzata per motivi specifici, motivi aziendali, deve avere però almeno 5 dipendenti. Quella in deroga era da 1 a 5 dipendenti, è da 1 a 5 dipendenti, quindi riguarda i piccoli esercizi o le piccole attività. Era un meccanismo molto molto complicato, come ha ricordato ieri anche il Premier Conte, riconoscendo che il meccanismo era particolarmente ingarbugliato per il rapporto con le regioni. se ho ben capito, almeno su quello c'è stata una semplificazione. Chiedo conferma a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Buonasera Giorgio. Sì, buonasera a voi. Sì, la cosa, diciamo, è stato fatto un accordo prima del Consiglio dei Ministri, c'è stato un accordo con le regioni, appunto. Perché il problema grosso della cassa in deroga è che chiamava in causa, diciamo, due soggetti, regioni e INPS, quindi c'erano circa quattro passaggi, e questo, diciamo, come dire, allungava enormemente i tempi poi di erogazione, sono calcolati tra i 3 e i 5 mesi. Certo. Una cosa che invece, diciamo, vista l'emergenza, si serve subito. Allora, che cosa si è fatto dopo, appunto, in virtù dell'accordo con le regioni? Si prevede che sostanzialmente, diciamo, per la cassa in deroga, per la cassa integrazione in generale, è stata prevista una proroga, quindi sostanzialmente alle 9 settimane previste dal decreto legge Cura Italia, chi ha usufruito delle 9 settimane tra il 23 febbraio e il 31 agosto può chiedere ulteriori 5 settimane. Poi se il 1° settembre avrà ancora bisogno di cassa integrazione potrà chiederne ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre. Le 9 settimane già autorizzate dalle regioni si procede con la vecchia, col vecchio, diciamo, iter, anche se con tempi e con procedure più celeri, diciamo, almeno sulla carta. Per invece le nuove richieste o comunque la proroga, diciamo, per 5 settimane, invece si procederà, il datore di lavoro non dovrà più fare, diciamo, domanda alle regioni, quindi serve l'autorizzazione, il decreto della regione, l'autorizzazione della regione, poi l'interfacciarsi appunto con l'INPS, mandare il modello SR41 con tutti i dati all'INPS per poi ottenere l'autorizzazione al pagamento, ma avrà come unico interlocutore appunto l'INPS. E questo, diciamo, dovrebbe... Tu parli sempre della deroga, il caso integrazione in deroga? Parliamo della casa, sì, esatto. Quindi l'accordo tra il governo e le regioni fa sì che i datori di lavoro si rivolgono direttamente all'INPS per velocizzare i tempi di erogazione, giusto? Questo per, esattamente, però è bene precisare, per appunto la... non per le vecchie 9 settimane del decreto di Cura Italia, ma appunto per le nuove settimane che sono appunto legate appunto, quindi per la proroga che è concessa appunto dal nuovo decreto legge. Oh, l'altro aspetto del mondo del lavoro, in questo caso non del mondo delle imprese, riguarda, allora, questa è la cassa integrazione, la posta qui sono 15 miliardi, è più o meno simile ai 14, non ricordo male, del decreto aprile relativo a marzo. No, attenzione. No, era il doppio. Perdonami. No, perdonami, c'era un problema grosso, perché il decreto Cura Italia di fatto aveva messo 5 miliardi sulla cassa integrazione, tant'è che c'è stato uno sforamento, cioè loro avevano fatto, se vi ricordate, Italia riferiva al 17 marzo e il grosso lockdown c'è stato intorno al 22 marzo, DPCM, no? Quello che ha fatto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha fatto le chiusure più grosse, diciamo, è arrivato qualche giorno dopo. E lì c'è stato, quindi le risorse che loro hanno messo sono finite subito, anche perché come funziona il meccanismo della cassa integrazione? Con la limitatezza di risorse, le aziende, sapendo che dovevano chiudere, hanno subito prenotato tutte e 9 le settimane e quindi i soldi sono finiti subito. In realtà si saprà solo a consuntivo quante di queste 9 settimane effettivamente sono state richieste, sono state utilizzate, però i soldi sono finiti subito, tant'è che da giorni, da una settimana quasi, e l'assegno ordinario dei fondi di integrazione, fondi di sostegno al reddito, che sono gestiti dall'INPS e così, sì, come FIS, così come anche la cassa ordinaria, non viene più concessa perché sono finiti i soldi. Hanno dovuto fare un decreto di riparto di ulteriori 200 milioni perché erano finiti i soldi. Allora, i nuovi 15 miliardi del decreto legge approvato ieri, in parte serviranno a pagare, almeno 3 miliardi serviranno a pagare appunto la coda, delle ultime settimane in cassa integrazione e del FIS. Esatto. Chiarissimo, quindi sono 15 miliardi, ma dicono almeno 3 serviranno per saldare le vecchie settimane di cassa integrazione, quelle relative al mese di marzo, giusto, soprattutto. Esatto. Oh, andiamo rapidi perché poi altri, questi sono 15 miliardi, ma tu hai fatto bene a chiarire, 3 servono sul pregresso. Poi ci sono altri 4 miliardi e mezzo per l'indennizzo da 600 euro per il mese di aprile, per professionisti, cococò, in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli. Aprile e maggio. Cioè 600 per aprile e 600 per maggio? Allora, è molto articolata, devi dare un minuto per spiegarla, perché è molto articolata. Allora, chi ha preso a marzo, diciamo, 600 euro, li riprende in automatico anche ad aprile. Semplifichiamola un po' così, va bene? In più, diciamo, ci sono una serie di categorie che citavi tu prima, che la prenderanno anche ad aprile, per esempio, che la prenderanno, che non l'avevano presa a marzo, la prenderanno anche adesso. E, per esempio, ci sono gli interinali, diciamo i lavoratori in somministrazione nel turismo, tutta una serie di categorie sostanzialmente che prima non c'erano e adesso lo prenderanno. Per maggio, quindi se, aprile sostanzialmente sarà in automatico. Sarà in automatico per chi l'ha già preso e dovrà fare domanda invece chi è inserito, che prima non era inserito, capito? Esattamente. Quindi sostanzialmente anche chi poi l'ha presentato, ecco, c'è un limite al reddito stagionali diversi al turismo. No, non ci sono limiti di reddito. No. Stagionali diversi al settore del turismo, lavoratori occasionali e quelli intermittenti. L'unico limite di reddito interessa i professionisti ordinisti. Nel cuore Italia cosa prevedeva? Prevedeva 600 euro per i professionisti ordinisti, era l'articolo 44 che istituiva appunto il reddito di ultima istanza, e prendevano 600 euro, sono gestiti dalle casse professionali. Fino a 35.000 euro di redditi prendono in automatico. Ah, solo per i professionisti iscritti agli ordini, diciamo. Esatto, tra i 35 e i 50.000 euro prendevano 600 euro, solo però a condizione che il loro reddito fosse, diciamo, del 33% inferiore rispetto al primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Quindi la fascia di reddito tra appunto 35.000 e 50.000 euro. Va bene. Ok, e questo rimane appunto anche adesso. A maggio cosa succede? A maggio succede che l'indennizzo sale a 1.000 euro, però ci sono alcuni paletti. Per esempio, i liberi professionisti titolati di partita IVA, se hanno avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre, prendono 1.000 euro. Stiamo parlando dei liberi professionisti non ordinisti, di partita IVA. In COCOCO, gestione separata, se hanno avuto se c'è stata una cessazione del rapporto di lavoro, prendono anche loro 1.000 euro. Ecco. Invece i professionisti ordinisti ne prendono, attenzione, 600. Quelli iscritti agli ordini. Esatto. Per cui se io sono una partita IVA, se ho ben capito, per salutarti, perché poi tutto il tema invece COF, badanti, le famiglie, lo faremo domani, è veramente lungo sul decreto. Se io sono una partita IVA, ho preso 600 euro a marzo, vado in automatico anche su aprile. Esatto. Se invece non ero nelle categorie che adesso sono incluse, farò domanda per i 600 euro di aprile. A maggio, sempre io come partita IVA, prenderò 1.000 euro, devo dimostrare di aver avuto il 33% del fatturato in meno nei due mesi del 2020, nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, giusto? Esatto, esattamente. Altra cosa interessante, gli artigiani e i commercianti che prendevano appunto il bonus di 600 euro, la prendevano a marzo, lo prendevano ad aprile, su maggio invece vanno vengono considerati come delle SRL e quindi si prendono l'indennizzo a fondo perduto, no? Per le imprese, che hanno subito un calo del 33% del fatturato, e quindi sostanzialmente lì c'è un minimo di 1.000 euro e poi a salire. Recentemente il ministro Gualtieri ha calcolato appunto che per le imprese può arrivare addirittura a 67.000 euro. Sì, ho capito. Euro più euro meno. Allora, quindi sostanzialmente anche commercianti e artigiani, se hanno avuto questo calo di fatturato, lo prenderanno a maggio. Perfetto. Giorgio, io ti do riappuntamento domani, così come alla collega del Sole 24 Ore Michela Finzio per la parte sulle famiglie, perché immagino arriveranno molte richieste, molti dettagli. È veramente tutto, grazie anche a Giorgio Pogliotti. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.